24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 16 minuti e 44 secondi inizia la terza parte di 24 Mattino di questo martedì 25 febbraio. Buongiorno care ascoltatrici e cari ascoltatori e buongiorno Maria Latella. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo in queste giornate complicate. E che ci possono raggiungere come sempre al 349-238-6666 per gli sms e per i messaggi su WhatsApp, anche audio. E all'800240024 per intervenire in diretta. Tra poco parleremo con Pierpaolo Sileri, vice ministro alla salute. Avremo più avanti Matteo Mauri, vice ministro all'interno, per capire un po' anche come si stanno controllando le cose nelle zone cosiddette rosse, come vanno le cose anche dal lato della prevenzione dello sciacallaggio e via dicendo. Quindi ancora concentrati su Covid-19, sul coronavirus. Concentrati su Covid-19, ma forse varrebbe la pena di guardare anche come lo stanno affrontando questo tema lontano dalle nostre frontiere, o meglio dall'altra parte delle frontiere. Noi abbiamo visto oggi, e ne avete già parlato su tutti i quotidiani, c'è una specie di cordone sanitario rispetto agli italiani che viaggiano dalle regioni del nord. Ma avete per caso letto sui nostri online la notizia che ieri mattina a Parigi, nel 13° arrondissement, un intero commissariato è stato isolato per timore che ci fosse un sospetto malato di coronavirus? No, non l'avete letto. Perché? Perché i media francesi hanno tenuto, per quello che ne so, la notizia molto molto bassa. Ieri mattina un turista cinese ha cominciato a sentirsi male e evidentemente sono arrivati tutti i sanitari e il commissariato nel quale lui si trovava è stato isolato per qualche ora. Nell'attesa delle decisioni dei medici nessuno poteva entrare, ma non c'è stato come dire il divampare delle notizie. Non mi pare che ci siano state le TV 24 ore con le cineprese, con tutti i cameraman davanti a questo ospedale. Non si è creato quell'allarme. Cosa voglio dire? Che noi stiamo facendo il nostro lavoro di informazione, secondo me anche molto pacata, ma forse altrove c'è stato anche un po' di eccesso di spettacolarizzazione. Ma succede sì, un po' in tutti gli eventi, allora, purtroppo. Qua fammi dire una cosa, che è quello che rispondevo anche prima ad un ascoltatore, un'ascoltatrice che ci diceva: insomma, voi giornalisti, genericamente intesi, no, voi giornalisti, infatti, ci sono, finisco, giornalisti e giornalisti. Sì, rivendichiamo la differenza. E questo è un punto. L'altro punto è che sì. Allora, magari ci sarà stata un po' di esagerazione nella comunicazione, può darsi, però dall'altra parte tenete presente quello che sta succedendo a livello delle istituzioni, perché non è che noi parliamo di questo argomento perché non sta succedendo niente, parliamo di questo argomento perché tre regioni hanno deciso di prendere delle ordinanze molto restrittive. È assolutamente così, però ho fatto il piccolo caso: se un commissariato a Roma o a Milano fosse stato isolato da un cordone sanitario per alcune ore, tu puoi immaginare la bagarre che si sarebbe creata all'intorno? Decine di telecamere, passanti, i giornalisti che facevano la diretta, e poi tutto si sarebbe sgonfiato. Così apparentemente si è sgonfiato, perché noi non sappiamo se quel turista cinese del 13° arrondissement è stato trovato positivo o meno. Quello che voglio dire è che mentre io parlo della Francia, ma potrebbe essere più o meno la stessa cosa anche in Germania, mentre in questi due paesi la spettacolarizzazione dei media viene tenuta sotto controllo, Gesù, che cosa si può dire di quanto è accaduto in Germania con l'evento che ha falciato 37 persone? E non c'è stata granché spettacolarizzazione di un evento così. tragico. È uno stile diverso. Personalmente penso che faccia molti danni la spettacolarizzazione fuori controllo. Un conto è l'informazione, quella che stiamo facendo, pacata, e un conto è lucrare con lo spettacolo. Ma è un'altra cosa, e personalmente da giornalista non mi piace. Sentiamo qualche ascoltatore, va. Per me la soluzione per le scuole c'è come istituire dei congedi retribuiti che vengono pagati in egual parte tra il lavoratore, l'azienda e un contributo statale, perché non è giusto che questa cosa ricada completamente sulle spalle dei lavoratori, che o si bruciano le ferie oppure non si sa come risolveranno il problema dei figli. Perché virologi, infettivologi, scienziati hanno opinioni discordanti, diverse? Ma la scienza non dovrebbe essere, capisco che la scienza è la scienza, ma uno dice che non c'è da preoccuparsi, che è poco più l'influenza, quell'altro dice che è una cosa pericolosissima, un allarme mondiale, globale. Insomma, quest'ultimo ascoltatore secondo me mette l'accento su un punto fondamentale, ossia quelle che sono le difficoltà in questa fase, ma anche per gli stessi scienziati, di capire quale può essere l'evoluzione di questo virus. Abbiamo in linea Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute. Buongiorno Sileri e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi dell'invito. Ci dà innanzitutto un aggiornamento a ora? Dei numeri, l'aggiornamento viene dato più tardi dal dottor Borrelli, ed è giusto che vi sia un unico aggiornamento al giorno per evitare quel balletto di cifre che poi a volte devono essere corrette, perché vi ricordo una cosa: quando vi è un caso positivo, quello deve essere confermato e può accadere che sia un falso positivo. Avete visto poi spesso sui giornali si legge caso a Roma, caso in Umbria, caso in Abruzzo. Attenzione, questo poi determina un panico ingiustificato. Ieri moltissimi dei casi che potevano essere sospetti sparsi per l'Italia erano tutti negativi, quindi affidiamoci alla cifra aggiornata. Adesso alle 8:30 iniziamo la task force, quindi avremo l'aggiornamento dalle regioni e poi verrà comunicato. Maria, prego. Vice Ministro, citavo prima il caso registrato ieri mattina a Parigi nel 13° arrondissement. Un turista cinese si è sentito male, il commissariato nel quale si trovava è stato circondato, isolato, non c'è stato nessun allarme, non c'è stata nessuna spettacolarizzazione della cosa. Non sappiamo nemmeno se il turista cinese sia stato poi trovato positivo al test o meno. Si è detto molto in questi giorni che l'Italia, avendo fatto molti test, da un lato ha scoperto prima i casi di contagio, dall'altro però ha evidenziato una certa tendenza all'allarmismo che è un po' tipicamente italiana. Avete commesso qualche errore in questo senso? No, mi dica, posso correggere. Perché i francesi senza... stanno tenendo tutto molto sotto controllo, no. Molto tranquillo. Ripercorriamo un attimo quello che è accaduto. Così. Allora, noi abbiamo avuto un paziente zero non identificato, perché al momento non è identificato, e abbiamo avuto poi una serie di secondo contagio, quindi questo 38enne che è ricoverato in terapia intensiva, con intensa attività sociale, che ha contagiato in un lasso di tempo, direi anche lungo, perché almeno 4, 5, 6, 7 giorni, un discreto numero di persone, e quindi ha creato tanti contagiati in un lasso di tempo di 5, 6, 7 giorni. Questo ha determinato un'infezione in quel focolaio nel Basso Lodigiano, e quindi un numero di persone, comprese quelle dentro l'ospedale, che non è il caso del cinese in un quartiere, non so se è chiaro, è un numero di persone all'interno di alcuni paesi, perché questi ovviamente avevano una loro vita in paesi limitrofi. Questo ha determinato un'azione imponente, forte, immediata, veloce, con reperire tutti i contatti di queste persone test a tappeto per limitare quanto più possibile quella che era l'area dove questa infezione probabilmente si era diffusa. È molto diverso. Io faccio sempre questo esempio: se quel ragazzo di 38 anni, anziché essere uno sportivo che è andato a correre, che ha incontrato persone, che è andato in palestra, che ha fatto tre volte a cena fuori e quant'altro, fosse stato uno studente, a me mi viene facile dire di medicina, facendo il medico, che magari aveva un esame, che era chiuso a casa perché aveva l'esame, stava fermo a casa 14 giorni, questa infezione non sarebbe nemmeno uscita. Perché le magari faccio un'altra domanda, mi scusi Vice Ministro. Però se a questo 38enne fosse stato fatto subito il tampone in quel pronto soccorso a Codogno, forse se ne sarebbero accorti tutti. L'ha detto il Presidente del Consiglio ieri, che c'è stata una mancanza di protocollo. No, attenzione, il Presidente ha detto un'altra cosa. Attenzione, quel paziente è arrivato in un pronto soccorso e giustamente i medici hanno raccolto un'anamnesi. Per essere definito caso, doveva essere un paziente che in qualche maniera era venuto in contatto con qualcuno di ritorno dalla Cina, e questo alla prima anamnesi non fu detto, oppure un qualcuno che aveva viaggiato in un'area della Cina dove era presente il virus. Siccome quel ragazzo è andato, poverino, in un pronto soccorso nel periodo in cui c'è anche il picco dell'influenza, quella sintomatologia è stata attribuita all'influenza. Il tampone non l'avrebbe pensato nessuno a farlo. Poi invece possiamo dire un'altra cosa. Possiamo dire che se all'interno di un ospedale un paziente va una volta e poi torna una seconda volta e alla fine ti trovi diverso personale sanitario contagiato, probabilmente qualcosa è accaduto in termini di contagio interno, ma attenzione, sì. Attenzione, la possibilità di riconoscere d'amblè che quel paziente poteva avere il coronavirus non vi era. Sicuramente qualcosa è accaduto in termini locali di contagio interpersonale all'interno, quindi qualche procedura che forse dovrebbe essere rivista. All'interno dell'ospedale, dice sì, lei, sì, Sileri. Il Presidente Conte non ha assolutamente dubito che possa, ne sono sicuro, anzi aver detto che no, è arrivato, doveva subito fare il tampone, perché non vi erano i criteri. Invece verosimilmente era contagiato e verosimilmente qualcosa deve essere accaduto, perché anch'io nel mio reparto, quando eravamo nel nostro reparto, se improvvisamente hai 5 complicanze dopo interventi chirurgici, dici oddio, facciamo una review di quello che abbiamo fatto perché abbiamo troppe complicanze questa settimana. Ecco, avere diversi medici contagiati in un pronto soccorso, dici forse c'è qualche procedura che deve essere rivista. Sì, che non funziona evidentemente. Però, non diciamo che doveva fare il tampone all'arrivo, perché questo non aveva i criteri. Certo, se lui avesse detto da subito sono stato in Cina, allora è chiaro che scattavano altre procedure, ma certamente questo non era accaduto. Sileri, allora, su questo tema che sta circolando in queste ore, da noi ci sono più casi perché ci sono più controlli con l'ipotesi di coronavirus, il famoso tampone, cioè si fanno più tamponi. È vera oppure no? Cioè, ci dà un chiarimento su questo? Guardi, credo, lo esprimo forse meglio il concetto che ho detto prima. Abbiamo sicuramente fatto più tamponi, ma avevamo anche più persone su cui fare più tamponi. Se noi fosse stato solamente il ragazzo di 38 anni, diciamo solo lui infetto, sarebbero stati fatti i tamponi a lui, sicuramente a tutti coloro che erano vicino a lui, anche asintomatici, ed è qui la nostra differenza rispetto ad altri paesi europei. Facciamo i tamponi a tutti i contatti per cercare di limitare quanto più possibile, circoscrivere l'eventuale infezione. Ma noi non avevamo solamente un paziente a cui fare, cioè, il tampone. Mi scusi, Sileri, aspetti, la fermo, perché questo è uno snodo importante. Gli altri paesi europei, agli asintomatici, il tampone lo fanno o non lo fanno? No, salvo che non siano proprio contatti strettissimi, tipo la moglie, no, non lo fanno. Noi abbiamo fatto un numero di tamponi che è, diciamo, probabilmente fra le 6 e le 10 volte maggiore rispetto agli altri paesi. Cioè, abbiamo utilizzato precauzione in più rispetto agli altri paesi, cioè abbiamo sempre cercato di fare qualcosa in più, e il numero quindi di tamponi sarebbe stato di più, ma vede, se era uno e aveva 10 contatti erano 10 tamponi, ma qui si tratta che abbiamo avuto 10, 12, 14, 15, 20 persone infette, quindi moltiplicate quanti contatti ognuna di queste persone ha avuto e altri secondari contatti, ecco l'esploit di tamponi ed ecco le positività, che poi molti tamponi sono positivi con pazienti completamente asintomatici che possono farsi una quarantena a casa, purché siano da soli e quindi non in grossi nuclei familiari, e alla fine magari si faranno tutta il ciclo del virus nel loro corpo senza nemmeno esprimere la malattia, come è successo per il ragazzo portato da Wuhan, risultato positivo, che ha avuto qualche linea di temperatura e poi alla fine è guarito, secondo, in 10 giorni. Ecco, secondo i dati forniti in Gran Bretagna, i tamponi lì sono stati 6.500, ma ci sono stati pochi casi. C'è stato il caso di quel britannico che ha fatto il giro d'Europa e poi è arrivato a Brighton e pare che sia stato appunto uno dei pochi. Avete dei contatti con gli altri colleghi dei ministeri della sanità europea? E che cosa pensa del fatto che per il momento chi arriva dal nord Italia non viene proprio bene accolto? Si guardi il caso dei turisti lombardi e veneti respinti alle Mauritius. Ma vede, i contatti sono costanti, giornalieri e anche più volte nella stessa giornata, soprattutto poi con i paesi limitrofi. Proprio anche oggi vi sarà una riunione. Ma cosa penso del è evidente che quando si genera la paura cerchi di evitare i passaggi di persone e ovviamente nasce anche quella diffidenza legata al fatto che c'è una paura che qualcuno da quell'area possa portarti la malattia. D'altro canto l'abbiamo avuto anche noi, no? Quando noi eravamo esenti e vi erano contagi sparsi nel mondo, anche noi abbiamo avuto paura, insomma, si è visto poi nelle settimane scorse. Io credo che la situazione al momento si sta cercando di controllare e vedremo tra qualche giorno i risultati. Finché abbiamo due focolai e ovviamente dei casi secondari mannati, insorti da quei due focolai, possiamo sperare con le misure prese, cioè con questa cintura sanitaria che è vastissima nel Lodigiano, perché ricordiamo che sono diverse decine di migliaia di persone che sono state quarantenate, quindi confinate nelle loro aree, più piccolo nel Veneto, se non vi sono casi che insorgono in altre aree, magari passati da queste zone, probabilmente la nostra azione darà dei risultati. Ed è l'azione, l'unica azione che consente, proprio quando è precoce, che consente la non diffusione del virus. Questa è la prima azione, l'azione più importante, l'azione contenitiva è l'azione in assoluto più forte, con dei risultati migliori in termini di prevenzione. Sileri, mi interessa capire se avete elaborato un altro scenario, ossia nel caso nel quale non riuscisse il contenimento del virus, tutta questa serie di misure di emergenza prese dalle regioni in accordo col governo, e forse oggi ne arriveranno altre nella riunione delle 10, fino a quando proseguiranno? Avete elaborato degli scenari? Dico che è chiaro che bisogna attendere l'evoluzione, mi è chiaro, Sileri, però suppongo anche che un'istituzione, il governo, le regioni, un'istituzione statale elabori degli scenari sulla base dei quali poi prende delle decisioni. Questi scenari quali sono? Beh, diciamo, diversi scenari sono degli scenari che sono stati elaborati nelle settimane scorse, anche grazie al fatto che abbiamo avuto il primo caso, la prima serie di casi in Italia tardivamente. Questo quindi ha consentito di elaborare sempre meglio dei piani, anche valutando ciò che accadeva negli altri paesi, soprattutto la Cina, dove si è visto che l'opera di contenimento che hanno fatto ha portato a una cospicua riduzione dei contagi, e quindi progressivamente lì ora c'è un buon ottimismo nella risoluzione del problema. E i piani sono stati elaborati ovviamente d'accordo con le regioni. Significa avere la disponibilità dei posti nelle malattie infettive, disponibilità di posti nelle terapie intensive adeguatamente predisposte per ovviamente i problemi respiratori acuti, sia per gli adulti sia per i pazienti pediatrici. Significa avuto una disponibilità, e questo dobbiamo ringraziare le forze armate, tutte le forze armate che hanno reso disponibili su tutto il territorio, in tutte le regioni, diviso per città, aree dove poter fare la quarantena in quei pazienti che dicevo prima. Io non li chiamerei ecco, pazienti. Ci saranno 4.000 posti, no? Nelle caserme del Lodigiano. Chi si occuperà eventualmente di gestire queste persone che saranno eventualmente ospiti delle caserme? L'esercito, le forze dell'ordine, avete visto il cordone sanitario e anche l'esercito. Ora qualcuno dice no, però l'esercito mette paura. Io francamente dico la verità, io quando passo per Roma e vedo una camionetta dell'esercito di Strade Sicure davanti a un'ambasciata, io mi sento sicuro. Io ogni volta che vedo un militare o una persona delle forze dell'ordine, io mi sento sicuro. Quindi non bisogna aver paura. Noi usiamo gli uomini, le donne, i mezzi che abbiamo a disposizione. In emergenza, più alto è il livello di emergenza, maggiore sarà il numero delle persone da impiegare, senza aver paura, senza, diciamo, intimorirsi. Questo è il messaggio che voglio dare alla popolazione. Cioè, noi siamo pronti. È chiaro che servono più livelli di attenzione, perché è come l'influenza stagionale. Parte a ottobre e poi a gennaio c'è sempre l'emergenza, perché c'è il picco dell'influenza. Il picco dipende anche dalla durata, dal numero di persone che vengono contagiate, dalla zona, quindi sarà anche necessario un aiuto interregionale. E il piano è francamente pronto ed è anche modulabile. È chiaro che se dovesse arrivare a un numero importante di casi, dovranno essere bloccate anche altre attività, ma questo è evidente, no? Immaginate ora in Lombardia, è chiaro che lì vi è un'emergenza e quindi ci si concentra sull'emergenza e magari attività secondarie. In questo momento questo non accade, ma se dovesse salire il livello di guardia, attività secondarie, intendo dire routinarie, dovranno essere contratte a favore dell'emergenza, ma questo accade in tutti gli ospedali. Viceministro, tutti questi italiani che vivono nelle regioni del nord, ma sono originari di regioni del sud, che decidono di rientrare nel paese di residenza perché le scuole sono chiuse, sono insegnanti o sono studenti, fanno bene o sarebbe più opportuno che restassero senza fare tutto questo viaggio e creare allarmismo tra i parenti? Purtroppo abbiamo visto che non sono tutti stati bene accolti nei loro ritorni. Ma guardi, io ricevo chiamate, persone che mi chiedono il da farsi. Ma vede, se sei residente nelle aree delineate, io considero le aree rosse, cioè nelle aree dove si è sviluppato il focolaio, è chiaro che lì devi stare in quarantena. Se non provieni da quelle aree, francamente in questo momento non vi è motivo, a mio avviso. È chiaro che poi per precauzione sindaci, autorità locali possono decidere, non so, chi cancella la gita, chi chiude la scuola, questo lo lasciamo anche al... è giusto che anche che sia così. Certo, un'uniformità nel paese sarebbe l'ideale, anche per evitare quel panico e diciamo quelle azioni che a volte potrebbero essere non giustificate. Come dire, se oggi in una città lontanissima dal focolaio dici chiudo una scuola, perché, ma se non c'è motivo, non c'è un caso, francamente non c'è motivo di chiudere la scuola. Io capisco la preoccupazione all'inizio, cioè nella prima settimana, posso capirlo, perché cerchi di capire ciò che accade, cerchi di tamponare quanto più non sapendo, però francamente al momento non vede questo motivo. Allora, grazie. Pierpaolo Sileri, viceministro della salute, la lasciamo a questa importante riunione di stamattina. Una pausa, tra un attimo. Giornata. 24 mattino. Vorrei precisare con gli ascoltatori che stanno scrivendo, un paio hanno scritto dicendo, quando si fanno domande come avete fatto, come ho fatto nella fattispecie, sugli scenari si fa allarmismo. Guardate, non è questo, la domanda è un'altra. Io vorrei sapere dal governo e dalle regioni, dato che è stata sostanzialmente fermata l'attività in 3 regioni e chissà quante altre dopo, a causa di questi 200 contagi, se hanno elaborato un piano per il ritorno alla normalità. È questo che vorrei capire. Giovanni da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Io volevo far presente che a Parigi erano stati trovati, mi sembra, 3 casi più o meno a fine gennaio, a Monaco di Baviera una dozzina di casi intorno al 20-25 gennaio. 16 per l'esattezza. Ecco. Ma in nessuna delle due città è neanche lontanamente successo quello che è successo a Milano in questi giorni, dove sono stati trovati 3 casi, tutti e 3 in ospedale, e su 2 persone che vengono da fuori città. La città è paralizzata, semideserta, e quindi un danno che non si sa quando sì. finirà e che conseguenze avrà. Sì, lo vedremo. Posso dirle però una cosa? Solo una cosa, solo un accenno, no, Maria, di cronaca, di pura cronaca, un accenno di pura cronaca. Vediamo cosa succede dopo il carnevale comunque, Giovanni, perché poi tante famiglie ovviamente a questo punto sono partite. Prego, Maria. Il punto è la differenza con il caso di Monaco di Baviera e con i casi di Parigi. Il punto è che Milano è la grande Milano, nel senso che metà delle persone che arrivano da metà, adesso sto dicendo una cifra a caso, ma insomma una buona quantità delle persone che arrivano ogni mattina a Milano per lavorare, arriva proprio da quella zona rossa che è il centro del focolaio. Se non ci fosse stato questo scambio, è evidente che la misura di isolamento decisa dal sindaco e dalle autorità regionali poteva sembrare eccessiva. Secondo me invece è stata opportuna, proprio perché gran parte poi delle persone che lavorano nella grande Milano arriva dalla zona rossa. Non si poteva fare diversamente. Secondo me forse si poteva fare diversamente. Comunque parliamone, abbiamo opinioni diverse su questo. Matteo Mauri, vice ministro dell'Interno, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Non sarà un po' troppo? Milano, la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna. Ma io credo che il principio di precauzione in questi casi sia molto importante. Ed è nell'interesse di tutti, di tutto il paese, cioè cercare di prevenire il più possibile l'allargamento del contagio, perché sappiamo perfettamente che quando si allarga progredisce in maniera più che proporzionale. Per cui intervenire subito, appena ci siamo accorti, per provare a limitare assolutamente il numero dei contagi, secondo me è utile, altrimenti il rischio era quello che andasse fuori controllo. Per cui direi di sì, direi che la scelta è quella giusta. Senta, ho chiesto un po' all'oste se il vino è buono, però sì. Insomma, prego Maria, vai. Avrei potuto dirle abbiamo fatto un po' troppo, invece no, sono sinceramente convinto. Okay, sono d'accordo. Sono d'accordo con lei, nel senso che ovviamente le ripercussioni sull'economia saranno gravissime, ma è tutto sommato una scelta, una misura della cui efficacia potremo valutare i risultati solo più avanti. Cioè non possiamo sapere se era meglio lasciare aperta. Intanto valutiamo l'impatto che una diffusione del virus in una grande città poteva avere. Poteva essere peggio, per essere un po' semplici. Senta, io le volevo chiedere invece che cosa rischia chi in questo momento sta speculando da sciacallo sulla situazione, chi alza i prezzi delle mascherine o perfino della mucchina, chi suona al citofono degli anziani per dire guardi stiamo venendo a farle il tampone e invece vuole soltanto frodarli. Qual è la situazione, se ci sono dei casi che avete già evidenziato alle autorità giudiziarie? Com'è e che cosa rischia questa gente che sta facendo probabilmente i conti senza l'oste, perché poi le autorità li troveranno, si spera almeno. Sì, ci sono dei casi conclamati, non sono in numero alto, per cui è chiaro che fanno notizia, ma non sono in numero alto. Però guardi, sono sempre gli stessi, cioè quelli che vanno a fare le truffe agli anziani dicendo che il loro nipote è rimasto bloccato all'estero, gli chiedono i soldi per farlo rimpatriare, sono gli stessi, e qui mi servirebbe una parolaccia, ma io ve la lascio immaginare, perché penso che sia uno dei crimini più odiosi che ci possa essere in giro, sono gli stessi che adesso vanno a fare il finto tampone del coronavirus. Tra l'altro questi sono crimini particolarmente odiosi, non solo perché sono rivolti a persone anziane che spesso e volentieri non riescono a capire fino in fondo le cose, ma perché hanno delle conseguenze devastanti su queste persone, perché un anziano che già si sente fragile e debole, nel momento in cui viene truffato, gli portano via l'oro in casa, gli portano via i soldi, rischia di avere un crollo psicologico, perché si sente inadatto, e a volte questa cosa addirittura porta a degli esiti tragici, per cui su questa cosa qua ci deve essere, io sono convinto da sempre di questo, un atteggiamento durissimo, e in effetti c'è un atteggiamento durissimo da parte delle istituzioni, parlando magistratura e sto parlando anche di chi fa l'indagine. Mauri, c'è modo di intervenire secondo lei per contrastare, ammesso che riteniate opportuno contrastare, questo giro di accaparramenti che sono partiti in particolare nei supermercati milanesi, ma non solo? Anche ascoltatori stamattina ci hanno scritto dal Veneto mandandoci foto di parti di supermercati svuotate. Insomma, c'è modo anche, forse anche, di far capire in termini di informazione alla popolazione che non è che si interrompono gli approvvigionamenti, eh? Si può impedire, si deve riuscire a convincere con autorevolezza e con un po' di buon senso da parte di tutti, perché la notizia importante da dare è che anche nelle situazioni più complicate, addirittura la zona rossa, ma in particolare la zona gialla, cioè tutta Lombardia, Veneto, eccetera, alcuni esercizi sono chiusi, alcuni sono chiusi per alcuni periodi, ma quelli alimentari sono e resteranno aperti. E di conseguenza non c'è problema che poi mi manca la pasta, mi manca il pane, mi manca il sale, per cui è una cosa inutile, che tra l'altro produce degli effetti negativi, perché poi uno ha 100 e quell'altro poi veramente a zero, per cui ottiene l'effetto contrario. Da questo punto di vista siamo veramente nelle condizioni di rassicurare tutti, è inutile, non c'è la guerra nucleare, non bisogna andare in un rifugio per 10 anni, non serve svuotare gli scaffali. Senta, Vice Ministro, credo sia utile anche per i nostri ascoltatori capire come vi state dividendo i compiti. Cioè, il Ministero dell'Interno, retto dal Ministro Lamorgese, si occupa di che cosa? Il Ministro degli Esteri, oggi ha dato un'intervista a Luigi Di Maio, si occupa di che cosa? Immagino anche di proteggere i nostri turisti che vengono magari respinti da Mauritius o i treni bloccati dall'Austria. Il ministro della difesa ha messo a disposizione le caserme, si occupa di che cosa? Ci può fare una sintesi di come vi state dividendo il lavoro tra ministri e ministeri? Diciamo che il punto centrale è Presidenza del Consiglio e Ministero della Sanità, in relazione stretta con le regioni, perché essendo la questione sanitaria il punto è quello, e ovviamente Presidente del Consiglio come massimo esponente del governo, lì è il cuore dell'intervento. Tutti gli altri sono, come si dice anche tecnicamente, serventi, cioè alla luce delle scelte fatte si mettono a disposizione per applicarle. Il Ministero degli Interni, sovrintendendo a tutto il sistema dell'ordine pubblico, ha il compito tanto di mantenere la situazione di calma e di controllo e dall'altro di far rispettare le ordinanze. Per esempio nelle zone rosse, dove è vietato, da cui è vietato uscire, il Ministero dell'Interno ha il compito di impedire alle persone di uscire e poi, come sempre, di mettersi a disposizione per risolvere anche i problemi, perché poi quello che c'è scritto sulla carta è una cosa, però in realtà si fa sempre molto di più. Come sta reagendo la popolazione, insomma, voi che avete la popolazione delle zone rosse, quelle nelle quali intervenite voi, Mauri? I segnali che abbiamo è di fiducia e di tranquillità, non ci sono fenomeni particolari, hanno tutti messo nel conto che devono aspettare questi giorni per capire l'evoluzione, ovviamente c'è una condizione di paura, questo però è inevitabile, ma mi sembra che le cose si stiano muovendo tutte in maniera molto ordinata. Calcoliamo che non sono comunque zone particolarmente grandi, io sono milanese, sono lombardo, le conosco anche bene, stiamo parlando di comuni medio piccoli, però sì. Devo dire che per ora si sta svolgendo tutto bene, anche sulla base della responsabilità dei cittadini, che poi è la condizione numero uno, guardi, non la numero due. Una condizione importante è anche quella di un raccordo tra le regioni e il governo centrale. Ieri c'è stata un po' di confusione. Qui a 24 Mattino è stato ospite poco fa il presidente della regione Marche, che voleva chiudere le scuole, poi è intervenuto il presidente del Consiglio e l'ha invitato a raccordarsi con tutti, ma c'è il rischio che appunto ognuno vada per conto suo? Allora, ieri c'è stato un po' di tensione, è vero, poi è rientrata in serata. Secondo me è importante che, così come si chiede ai cittadini di seguire, diciamo così, un ragionamento logico, di essere ordinati, lo devono fare anche le istituzioni, per cui è importante che ognuno faccia il proprio lavoro, ma ci sia un coordinamento nazionale, perché poi il virus non è che riconosce i cartelli di fine regione, inizio provincia, per cui bisogna agire in maniera proporzionata e coordinata. Da questo punto di vista è importante la regia nazionale, ma è molto importante quello che fanno soprattutto le regioni in chiave di sanità, e per adesso grossi problemi non ce ne sono stati, ma la riunione che c'è questa mattina alle 10 è proprio per tirare il filo del coordinamento, che in questo caso è molto importante. Tiziano da Monza, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io faccio parte della ristorazione e ci state massacrando, perché praticamente avete chiuso i locali la sera, e la sera non ha senso, perché il coronavirus non è che diventa più attivo anziché di giorno. Se dobbiamo chiudere la zona rossa e non far venire a Milano determinate pericoli, perché logicamente di là c'è stato questo focolaio, questo non vuol dire che dovete chiudere esclusivamente anche tutti i locali serali, i locali che praticamente con questo sistema stiamo andando in ginocchio, cioè la ristorazione si sta bloccando e praticamente il danno è incalcolabile per tutti. Noi abbiamo 20 dipendenti che lavorano nella ristorazione, a questo punto io non so però come fare a pagare gli stipendi, per cui o fate degli interventi che ci permettono di sopperire alla luce, agli stipendi e a tutto questo disastro, se no non fate questo allarmismo, perché tanto la sera e di giorno secondo me non ha senso chiudere i locali e non far circolare le persone. Ecco, questo è un po' il mio pensiero. Mauri, certo non è il suo specifico, però insomma una risposta anche a un conterraneo si può dare forse. Sì, sicuramente c'è un tema economico vero, è vero che molte attività sono in difficoltà, non bisogna assolutamente negarlo, al contrario al Ministero dell'Economia e della Finanza si stanno già approntando alcuni interventi proprio per andare incontro a quelle realtà che obiettivamente rischiano molto. C'è da dire però una cosa specifica: la ristorazione in senso stretto non ha particolari limitazioni, perché la limitazione è quella serale, che c'è in Lombardia per esempio, il signore di Monza, per cui lombardo, che dice che dalle 18 alle 6 del mattino bisogna chiudere i locali di intrattenimento, non si riferisce ai ristoranti. I ristoranti sono aperti anche la sera, per cui è vero che i ristoranti sono quelli che sono stati meno colpiti in assoluto rispetto a tutti gli altri esercizi commerciali. Sì, tranne i ristoranti cinesi, naturalmente. Poi qual è il punto? Il punto è che la gente in questo momento la sera esce comunque molto meno e di conseguenza molti ristoranti sono anche vuoti o semivuoti per quella ragione, perché c'è paura in giro. Ma la limitazione sui ristoranti non c'è, lo dico a tutti in maniera esplicita, non c'è. Invece forse il nostro ascoltatore ha un locale notturno, un locale di altro tipo, magari un pub, una cosa di questo genere. In quel caso sì, ma la ristorazione in senso stretto, cioè il ristorante per capirci, sì, quello è aperto. Grazie Matteo Mauri, vice ministro dell'interno, per essere stato con noi. Cara Maria, noi ci risentiamo domani alle 8:20. Grazie a Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera in assistenza e redazione, Margherita Ine e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Andate sul nostro canale Instagram, stamattina ci avete mandato molte foto di città vuote, scaffali vuoti e via dicendo, ne postiamo qualcuna. Ciao, noi a ci tutti. Risentiamo domani mattina alle 6:30. Ciao.